Nella Halakha stiamo proseguendo con le indicazioni specifiche per la lettura dello Shema, quindi la mitzvah di Kriyat Shema, lettura dello Shema, ed è il capitolo 17 dello Kitzur Shulchan Aruch, paragrafo 4, Seif Dalet. Stavamo parlando prima delle indicazioni riguardanti la lettura del primo versetto Shema Israel e anche del secondo Baruch Shem. Ora proseguiamo un po'. L'Halakha ci insegna che dopo aver concluso la lettura delle parole Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ve'ed, si fa una brevissima pausa. Shohemeat attende un pochino, fa una piccola pausa, cioè che non sembri un versetto qualunque, che non sembri che sia un unico versetto, per dividere. Ve'ed, piccola pausa, e poi Ve'ahavta, Ve'omer, Ve'ahavta, Ve'gomer, e procede con Ve'ahavta. E poi, avendo concluso Ve'ahavta, cioè con la parola Uvishe Arecha, Ve'chen ben Parashat Zo, le Parashat Ve'ayim Shamoa, prima di iniziare la seconda parte, cioè Ve'ayim Shamoa, di nuovo una piccola pausa, Yafsik Me'at. Poi, analogamente, Chen Kodem Vayomer, avendo concluso il Vayayim Shamoa con Kimea Shamaim Ala Arez, prima di iniziare Vayomer, di nuovo una piccola pausa. Inoltre, un'altra indicazione, Vichaven Beparashat Vayomer, abbia la persona in mente durante il brano di Vayomer, Le Kayem Mitzvat Asse, che ci si propone ad adempiere al precetto positivo, la mitzvah a sé, mitzvah positiva. Quale mitzvah? Zechirat Yetziat Mitzrayim. Il ricordo di tenere sempre presente il ricordo dell'uscita dall'Egitto. Questo durante i momenti in cui si legge la parasha di Vayomer, l'ultima parasha, ed è anche esplicito su quella parasha, su quel brano, Asher Hozeti Etchem Me'eretz Mitzrayim. Eh? Ok, nel prossimo paragrafo Tzarich likrot kriyat shema bedikduk gadol, bisogna leggere lo shema con molta attenzione, con molta attenzione, mitoch sidur meduyak hetev, leggendolo da un libro esatto, cioè privo di errori. Questa è già un'altra parentesi, ovvero quando si hanno dei libri c'è una halakha che dice che è vietato tenere dentro casa, si parla di un sefer vero e proprio, però si applica anche ad altri libri di halakha o di tfilah, che non sia esatto. Se il libro ha degli errori vanno corretti, oppure il libro non va messo in casa, perché chi non sa che ci sono degli errori potrebbe prendere per buone le indicazioni o le parole che sono scritte, non essere tratto in errore. Ok, quindi è proprio una cosa importante che riguarda moltissime cose. Però qui stiamo parlando dello Shema, visto che per lo Shema bisogna fare particolare attenzione alle parole e alla pronuncia esatta di queste. Quindi dice che bisogna leggerlo da un libro che è sicuro che sia esatto. Inoltre, v'yashmi'a le'oznav, la persona quando legge, lo legge in maniera che lui stesso sente quello che sta pronunciando. Le'oznav, alle proprie orecchie, fa sentire, cioè legge un po' a voce sufficientemente alta che lui stesso può sentire. Mashe umotzimi piv, ciò che fa fuoriuscire dalla sua bocca, come? Bravissimo, esattamente quello che abbiamo studiato nella Gemara. Ve'yashkiach, inoltre, questo però ancora nella Gemara non l'abbiamo visto, la cosa successiva che dice, ve'yashkiach, faccia la persona attenzione, abbia cura, shelo yomar dagush be'makom rafe, o rafe be'makom dagush, cioè di non pronunciare la lettera doppia, diciamo tra virgolette, cioè il dagesh, al posto della lettera semplice e viceversa non pronunciare la lettera semplice al posto della lettera più dagesh, più diciamo come la lettera doppia. Che significa? Allora facciamo un esempio. Se per esempio c'è scritto nello Shema, nello Shema è scritto Nishba, quel pezzo là. Vehayu facciamo un esempio così, c'è scritto Vehayu Hadevarim Ha'el. Ha'el, la Lamed ha un Dagesh, è come una lettera doppia, Ha'el, invece di Ha'el, che è un po' diverso. E ci sono altri esempi, chiaro che se si presta attenzione si vede l'indicazione anche nel Sidur, c'è qualche segno per indicare che c'è il dagesh, a volte c'è un trattino sotto la lettera o un'altra maniera, ogni sidur può usare un metodo diverso, però questo contribuisce anche al significato e alla struttura grammatica della frase spesso. Quindi quando vogliamo leggere una cosa con particolare attenzione, è chiaro che questa è una delle cose alle quali appunto facciamo attenzione. Che sta dicendo di fare attenzione ai segni. Sì, sì, qui sta parlando della cosa specifica della parola del dagesh, però questo è... anche perché in alcuni casi la differenza del dagesh o meno o la posizione del dagesh sulla parola, la prima parte o la seconda parte, può cambiare il significato, l'intenzione di quello che si sta dicendo. Questo è un esempio di attenzione che bisogna fare. Ora fa anche un altro esempio. Ve'yafsik k'tzat, dovrebbe la persona un po' interrompere. Bechol makom shenishar kav kaze. Se guardate il testo, tre righe prima della fine della pagina, ogni punto in cui c'è una riga come questa, ed è indicata nel testo, kaze, cioè una barra, perché ci sono queste barre? Per indicare che bisogna fare una piccola interruzione. Perché bisogna fare una piccola interruzione? Perché in alcuni casi nello Shema abbiamo una parola che segue un'altra, che se la leggessimo, se leggessimo insieme queste due parole velocemente, si potrebbe saltare una lettera e inoltre potrebbero queste parole assumere un altro senso. Finisce una vocale, esempio, inizia la vocale, no? Così. Esatto. Per esempio, Vesamtem et devarai elle. Ok? Allora, se non... facciamo questa piccola interruzione tra Vesamtem et, allora ci sono due problemi. Primo, sembra Vesamtem et, sembra una parola sola, Vesamtem et. Poi, se c'è anche la parola met, che non c'è la parola met, Vesamtem et. Met vuol dire morto, cioè assumiamo altri significati. Inoltre, da due parole ne facciamo una, e non è quello che è scritto, le parole sono due. Quindi non sarebbe leggere lo Shema con attenzione, con precisione, come la Halacha ci invita. Ecco perché in molti libri c'è questa indicazione nel testo che ci aiuta a ricordare dove dobbiamo fare queste piccole interruzioni per scandire precisamente, più esattamente le parole. Perdonami, prego. Scusa, però questo penso che sia più applicabile a una persona che noi abbiamo studiato che tu devi capire quello che stai leggendo, no? Giusto? Mm-hmm. Nel momento che io sto capendo, ho capito quello che sto leggendo e leggo, se la mia consapevolezza so, sì, quello che sto dicendo, anche, sì, se lo leggo in maniera veloce, no? Facciamo così, sì, però, sì, so quello che sto dicendo. Allora? Quindi, cioè, porre attenzione è relativo perché io so quello che intendo, cioè okay, cosa voglio quello dire, che no? Stai dicendo, ma per la Halacha non è così. Perché cosa ha detto l'Alacha? Sì, perché c'è questa cosa? L'Alacha ha detto che la mitzvah dello Shema è una mitzvah di lettura, non è solo una mitzvah di consapevolezza, di intenzione, di quello che tu hai capito. Sì, io so che quando io dico Vesamtem et Devarai Elle, capisco benissimo il significato. Va bene, hai capito il significato, però lo devi scandire bene, perché la mitzvah sta anche nella lettura. Ecco perché bisogna addirittura che devi sentirti. Ecco, sì, stavo per dire questo, ti devi sentire. Scusa, se è un discorso di consapevolezza, non lo devi neanche dire. Non solo lo puoi dire a bassa voce, non lo dovresti neanche dire, lo pensi e basta. No, invece è una mitzvah di azione. Azione con le labbra, ma sempre un certo tipo di azione. E quindi va espressa e va appunto pronunciata. È proprio questo che l'Alaha ci sta insegnando, proprio questa cosa qui. Perché dà per scontato che sa quello che sta dicendo. Tuttavia deve appunto scandire, pronunciare le parole che siano quelle. Che le parole fuoriescano nella maniera giusta. Ok? Bene. Ora dice, come tra parentesi, Vigambi psuke de zimra tzarich le dakdek becholze. Non è che nelle altre parti della tefilah, come psuke de zimra, di cui abbiamo già parlato, non deve fare attenzione a queste cose. Certo che pure lì, se può uscire un significato diverso, se può, è chiaro che anche lì bisogna fare attenzione che non ci siano altri significati o parole che vengono ingoiate in qualche maniera, eccetera. Tutto questo vale anche lì, però nello Shema è ancora più sottolineato. Un'altra cosa che ci invita a ricordare è Vyat'im et ha'ayin, yafeh et ha'ayin shel tevat nishba. Quando siamo per concludere il secondo brano, prima di iniziare il terzo di Vayomer, noi diciamo le mani irbuye mechem vimevenechem al ha'adama asher nishba. La parola nishba vuol dire che ha giurato, che HaKadosh Baruch Hu ha giurato di dare la terra ai vostri avi. E però la parola nishba può trarre in inganno, perché il giuramento, il verbo giurare, conclude con la lettera ayin. Infatti se guardate la parola nishba, poi nel libro, conclude con la lettera ayin. Ma se, come molti non... A Roma già è un po' meno problematica questa cosa perché c'è la ngain, no? Più gutturale. Però molti che non sottolineano la differenza tra la ayin e la alef, allora è come se la parola nishba concludesse con una hei, nishba, e c'è un altro significato che non vogliamo applicare questo significato, perché nishba vuol dire con la hei essere imprigionato, preso in cattività. Asher nishba Hashem lavotechem. Non c'entra niente, anzi è un significato che non vogliamo dare a questo contesto. E quindi anche chi normalmente non fa nella lettura una differenza tra la Alef e la Ayin, è importante qui invece sottolineare in qualche maniera questa differenza, Nishba, renderlo un po' più gutturale. Bravo. Shelo yehen nishma, che non sia... che non sembri che ilu amar nishba behei, che non sembri come se avesse detto nishba con una hei. Quindi come si sottolinea? Nishba. Gutturale. Io non ce l'ho con la in romana, quindi con la gola. Nishba. Nishba. Come qualcosa che c'è dopo la bet, non solo nishba. Da dietro la gola. Nishba. È con l'ain, sì. Sì, sì. È così. È così, e non senza, perché senza avrebbe l'altro significato. Di essere preso in cattività. Ora un'altra indicazione specifica, vechen zain shel tizkeru, la lettera zain della parola leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai, anche quella, e anche uzchartem, sempre la lettera zain dello stesso verbo di ricordare tizkeru uzchartem, che qualcuno potrebbe dirlo in maniera veloce e non porre appunto l'attenzione su questa lettera, e cosa verrebbe fuori? E da te che te bisogna fare molta attenzione. Shelo yehe nishma, che non sembri come se avesse detto chi lo amar beshin. Tiskeru. Beshin, no? Con la lettera sembra quasi una S. Beh, le man tiskeru. Questa cosa lo fanno quasi. Io lo faccio purtroppo. Infatti molti fanno attenzione a dire tizkeru, uzchartem, perché ha un senso non quello che la Torah sta dicendo. Questi sono esempi di attenzioni, di accorgimenti a cui bisogna fare attenzione di pronuncia durante la lettura dello Shema. Ora invece l'atteggiamento generale della persona, che vediamo sull'ultima pagina qua, Seif Vav, sesto paragrafo, ed è una cosa che qualcuno nel passato ha fatto qualche domanda a riguardo, e non mi ricordo chi era, e ho detto che lo si spiegherà, forse Ariel. Hakore Kriyat Shema, colui che legge lo Shema, mentre lo legge, lo Yirmos Be'enav, non eseguisca cenni con gli occhi, ve lo Ikrotz Bisfatav, o muovere le labbra per dare indicazione a qualcosa. Come vuole un caffè. Ve lo Yarebe Etzbeotav, nemmeno con le dita o le mani. Ok? Cioè, totale attenzione posta su quello che sta facendo, cioè la lettura dello Shema. Simile all'Amidà, però qui c'è adesso una nota. Ach le tzorech mitzvah, se è per una esigenza di mitzvah, per il compimento di una mitzvah, mutar lirmos, è permesso dare indicazioni, diciamo con le dita o con gli occhi, però be parasha shnia, solo da Ve'ayayim Shamoa in poi. Dalla seconda parasha, cioè da Ve'ayayim Shamoa. Se è per una mitzvah che tu devi subito dare qualche input per una determinata mitzvah, e se non la dai la mitzvah non sarà fatta col giusto accorgimento, allora lo puoi fare non parlando, indicando, ma solo dalla seconda parasha in poi. Tipo col dito gli puoi far vedere. Bravo, bravo, buon esempio. Ora, riguardo il comportamento ancora durante lo Shema, noi teniamo in mano le tzitziot, vero? Allora vediamo nel settimo paragrafo. Kodem Kriyat Shema, prima di iniziare la lettura dello Shema, e ci sono diverse usanze quando, in che momento esattamente. Qui dice che Sheomer Vavienu, quando nella Berakha che precede lo Shema si dice Vavienu le Shalom Merba Kanfot Aretz. C'è un'allusione, visto che si parla, si chiede ad Akadosh Baruch Hu, si prega di portarci in maniera pacifica verso Eretz Israel dai quattro angoli della terra, Me'arba Kanfota Aretz. Quattro angoli ci ricordano i quattro angoli dei Tzitzit, che è sempre la stessa parola, Kanaf, Al Kanfe Bigdem, gli angoli dell'abito. Tra l'altro in Yiddish il Talet Katan si chiama Arba Kanfes, ecco. Arba Kanfot. Il quattro angoli, hai messo il quattro angoli? E allora in quel punto, o comunque durante la Berakha di Ahavat Olam Avtanu, si uniscono le quattro tzitziot. Notele tzitzit beyado, prende in mano le tzitziot, veochez, veochazan, e le tiene, le regge, bishat kriyat shema biyad semol, si tengono durante lo Shema nella mano sinistra. In particolare l'indicazione anche del dito, ben che mitza lezeret, tra l'anulare e il mignolo. Ok? L'ultima. Non ho capito. Qua di sinistra, ma così. Ok. Questa cosa dell'anulare e mignolo. O che c'è magia le vayomer. Concludiamo. Quando si arriva alla terza parasha, cioè al Vayomer, Shemagia le Vayomer, Shehu Parashat Tzitzit, che è il brano in cui si parla dei Tzitzit, a quel punto si trasferiscono le Tzitziot alla mano destra, o Chazan, Gambi, Mino, oppure si tengono anche con la destra, cioè potrebbero rimanere nella sinistra, nel punto tra il mignolo e l'anulare, e così. E però dal Vayomer si prende in mano così con la destra, in modo tale che quando si arriva al parlare degli tzitzit, come dice qui, uksheomer ureitem oto, quando si dice ureitem oto e vedrete le tzitziot, la Torah dice, si guardano le tzitziot, si pongono davanti agli occhi, notnam alainaim, si pongono davanti agli occhi, li si osserva, mistakel bahem venoshkan, e li si dà un bacio. Si baciano. Venohagin, e si usa inoltre, shebechol pam sheomer tevat tzitzit, ogni volta in cui si dice la parola tzitzit, che sono tre volte nel corso di questo brano, noshkan, si baciano di nuovo. Veochazan, e fino a che punto si tengono in mano le tzitziot, fino a un certo punto durante il brano di Vi'atziv, che segue il brano dello Shema, fino alla parola Venechemadim la'ad, e questo è indicato anche nelle tefilot romane. She'az noshkan, che a quel punto le ribascia di nuovo, umanichan mi'adav, e le lascia cadere dalle mani. Giro la pagina. Non si bacia alla fine dello Shema allora? Anche alla fine dello Shema usiamo, sì, qui non fa riferimento, però si usa anche a Emet, a baciare. Ora, procediamo. La Halakha dice come funziona la conclusione dello Shema. Be'omro, quando si dicono le parole Ani, Hashem e Lokechem, che sono le ultime tre parole del brano ultimo dello Shema, bisogna accostare e dire subito la parola del brano successivo, cioè Emet. Yomar Miyad, dica immediatamente, anche la parola subito Emet, aggiunge la parola Emet, vero? Senza fare pausa, Shelo lafsik benehem, per non fare pausa tra le due parole. Vegam ha-shaliach tzibur omer ken, anche l'officiante, quando prega per tutti, anche lui dice Emet, però poi ripete Vechoser ve-omer Hashem Elokechem Emet. Ora, quando l'officiante ripete queste tre parole, le persone che partecipano devono tenere in mente la seguente cosa. Vichaven kol echad lishmoa gimel tevot elu. Ognuno debba fare attenzione a sentire queste tre parole, la ripetizione Hashem Elokechem Emet, dall'officiante, mipi ashaliach tzibur, perché? Perché con queste tre parole si arriva al numero 248. Ki be'elu gimel tevot, perché con queste tre parole nishlemu, si completa il numero di resh mem chet, cioè 248 lettere tevot bikriyat shema, che corrispondono a keneged, ramach, evarim, shebadam, che corrispondono alle 248 membra del corpo umano. Visto che nello Shema ci sono in realtà 243 parole, 245, aggiungendo, ripetendo le tre parte dello Shaliach Tzibur, Hashem, Elokechem, Emet, si rientra nel numero 248. Solo un secondo, scusa. Un matchilin, achar kach, ve'yatziv. E poi subito si inizia ve'yatziv, ma non si ripete Emet ve'yatziv. Cioè Emet l'abbiamo accostato alla conclusione del brano precedente, e poi procediamo direttamente con Ve'yatziv, Balasur Lomar Odapam Emet, ma non si ripete Emet. Chi invece prega da solo, e non c'è lo Shaliach Tzibur, allora l'Alacha dice, Umi Shemitpalel Bi'echidut, colui che prega da singolo utente, Yomar Kodem Kriyat Shema, dica prima di iniziare a leggere lo Shema, le parole Kel Melech Ne'eman. Questa è l'alakha proprio. Per rientrare, è un'alakha che però ci sono anche usanze diverse. Ecco. Anche nel questo tipo di alakha ci sono usanze diverse. Le ashlim begimel tevotelu. Per per completare queste tre parole, minyan resh memchet, per arrivare al numero di 248. E poi dice, tra parentesi, besidur harav, nel libro di tfilà del Rav, chi è il Rav? Sì. L'Alter Ebbe, lui. Autore del Tania, ha fatto anche un Sidur, sì, che io uso. Lui c'è scritto non dire che il Melech Neeman, bensì di anche da singolo ripetere Ani Hashem Elokechem. Quindi ci sono usanze diverse. Cioè, Ani Hashem Elokechem. Anche il singolo alla fine ripete. Invece di dire che il Melech Neeman all'inizio, ripete alla fine Hashem Elokechem. Non tutti e due, o una o l'altra. No, dici, lo puoi dire all'inizio e alla fine. Secondo il proprio rito che uno segue, se uno segue il rito romano. C'è scritto dirlo prima. Se uno segue il rito romano, allora segue quel rito. Lì c'è scritto che è il Melech Neeman. Non si fa un po' questo rito, un po' quello. No, solo per dire. Grazie. Prego, la domanda di Alberto. Se capita che è come se si fosse da soli, perché non c'è Minyan, e se è al tempio e che Anteva sta dicendo lo Shema. Lo Shema arriva in fondo, no? Allora, come si regola chi officia per quei 8-9 che sono presenti? Non ho capito, non c'è Minyan? Non c'è Minyan, quindi dovrebbe scattare, subentrare il fatto di Minyan che rimane all'inizio. Giusto. Questo, no? Allora, siccome mi ci sono trovato, e allora, se io dico io ho detto in me stesso e me ne man, e poi in fondo mi è venuto il dubbio se non devo ripetere le tre parole. No, perché non c'è Minyan. In fondo, se sto invece non in Tevan, non ho mai risposto alla fine perché ho le tre parole prima. Esattamente, bravo, sì, sì. Quando si sta pregando insieme, ma non c'è Minyan, è come si applica la regola del singolo, che abbiamo detto, si applica anche se sono in nove, è quella la regola del singolo. Molto bene. Kazak. Quando non c'è Minyan non varrebbe nemmeno che uno si poggia alla no, lettura. No, potrebbe farlo per aiutare magari la lettura. No, quello non è un problema. Però non è un vero e proprio shliach tzibur. Comunque, finché non è un tzibur, il pubblico diventa tzibur al momento che ci sono 10. Però non c'è nessun problema se uno dice alta voce, diciamo la gente può stare appresso, può essere aiutata nella lettura. Però non ti faccio d'obbligo. No, assolutamente no. Quello. Ecco perché non aiuterebbe a ripetere. Esatto. Non c'è l'uscire d'obbligo, è un semplice appoggio. Se qualcuno ha invece sì interrotto durante lo Shema, allora affrontiamo qui nella penultima halakha qua del nono paragrafo, Seif Tet. Im hifsik beemza kriyat shema, se una persona ha interrotto in mezzo alla lettura dello Shema, dehainu, ovvero cosa vuol dire in mezzo? Vuol dire da Shema Israel fino al Haaretz, stiamo parlando dei primi due brani, prima di Vayomer, da Shema Israel fino a Vayomer, fino a prima di Vayomer. Se ha interrotto Mahamat Ones per una causa o motivo di forza maggiore, okay? Non perché ha voluto che non so che cosa, per causa di forza maggiore, era obbligato, costretto a fermarsi, perché dovrebbe essere stato costretto? Fa anche l'esempio, Kegon, per esempio, Shayatza Richlazet la Sotzrachav, doveva uscire un attimo per fare i suoi bisogni. Abbiamo detto che non si può pregare se uno deve fare i propri bisogni. Quindi è costretto ad interrompere. Oppure un altro caso possibile, Shenimzazzo A, Babai, cioè se una sporcizia, un escremento nel luogo in cui sta pregando, deve interrompere, giusto? E spostarsi o comunque qualcosa, o pulire, eccetera. Allora, questa interruzione, quindi per interruzione non si intende necessariamente che ha parlato, però ha dovuto fare qualcos'altro e interrompere, cioè è trascorso del tempo nella lettura che non stava leggendo. Allora la domanda è quanto tempo è trascorso? Im shaham meshech zeman. Se è trascorso un periodo di tempo, shehayahu, che in quel determinato tempo avrebbe potuto, hayaya holomar kol kriyat shema, avrebbe potuto leggere tutta la lettura dello Shema nel tempo intercorso, allora tzarich lachazor litkriat kriat shema. Allora a quel punto deve riprendere da capo Shema Israel. Invece se è trascorso meno tempo nel periodo intercorso di quanto durerebbe la lettura dell'intero Shema, allora può proseguire dal punto in cui aveva interrotto. Questo è il criterio. Più semplice. Sì. Seif Yud, ultimo paragrafo di questo capitolo. Se kara kriyat shema, se la persona ha letto lo Shema, venichnas le beta knesset, ed è entrato al tempio, cioè lui l'obbligo della lettura dello Shema ha già fatto, è entrato al tempio, mazzazi bur shekorin kriyat shema, e trova che il pubblico stanno leggendo lo Shema, il pubblico sta leggendo lo Shema. Tzarich likrot imahem kol kriyat shema. La persona è obbligata a ripetere insieme a loro tutta la lettura dello Shema. Questo è preferibile, ma se sta facendo, cioè anche lui deve iniziare a tefilà o qualcosa, deve fare altre cose, è sufficiente solamente recitare insieme il primo versetto. Però è preferibile, se possibile, leggere tutto l'intero Shema con loro. Perché è una halakha che già abbiamo visto in parte. Sì. La motivazione è se lo yera'e, che non faccia sembrare che ilu einoro zele kabel ol malchut shamayim im chaverav, che non sembri che lui non accetta il gioco del regno divino che noi accettiamo quando recitiamo lo Shema con tutti gli altri ebrei che lo stanno facendo in quel momento. Vikabel Sachar che coreba Torah. Questo vuol dire, questa frase che abbiamo appena letto, e riceverà una ricompensa come uno che legge la Torah. Cosa vuol dire? Vuol dire lui, la mitzvah dello Shema, l'obbligo della lettura dello Shema è già per lui stato fatto, perché lui ha già letto lo Shema prima. Allora dice, scusa, come può ripetere una cosa che ha già fatto? Non è che si possono ripetere le mitzvot. Dice, no. Però nella lettura dello Shema c'è un'altra mitzvah, che è lo studio della Torah, fa parte della Torah. Allora dice, sì, lui legge per unirsi al pubblico, ma non è solamente una manifestazione di unione con il pubblico, è anche una mitzvah di per sé, come chi legge la Torah, chi legge qualche altro brano della Torah. Perché fa parte della Torah. Ok, un secondo. Se c'è o non c'è minyan è uguale. In realtà questo si applica con il Sibur, quando c'è minyan. Sì. Vehu hadin, e la stessa cosa si applica anche in un altro caso, cioè che bisogna unirsi a quello che dice il pubblico anche se non si sta a passo con il pubblico. E qual è quest'altra, e questo altro esempio? Im hu bevet hakneset, se la persona è, no, in realtà un'altra cosa stiamo dicendo, se uno si trova dentro al tempio, cioè non è che è arrivato adesso e sente che stanno facendo lo Shema e si unisce allo Shema come abbiamo detto adesso, ma bensì già si trova al Bet HaKneset. Veomer divrei tachanunim, e forse lui sta dicendo delle suppliche, delle cose al di fuori della tefila, oppure del teilim, dei salmi, psukim, dei versetti, vemakom shirashai lafsik, se si trova in un punto della tefila o della sua lettura personale, eccetera, che è permesso interrompere, deve interrompere e unirsi allo Shema se sente lo Shema. Un'altra cosa per la quale bisogna interrompere, se ci si trova in un punto in cui si può interrompere, oltre ovviamente che Kedushah, Barechu, Amen, eccetera, è i 13 attributi. Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, quando il pubblico recita questo, e noi o non stiamo pregando o stiamo facendo delle cose in cui possiamo interrompere, siamo tenuti a interrompere quello che stiamo facendo e leggere con il Zibur, con il pubblico, questo versetto. Concludiamo. Questo è perché abbiamo detto riguarda una persona all'inizio di questo paragrafo che già è uscito l'obbligo, è uscita, ha fatto l'obbligo dello Shema. Però se ancora non ha letto lo Shema, ve'im hu adain lo karakriya Shema, se lui ancora non avesse letto lo Shema, kore gam ken imatzibur, legge anche lui con il pubblico, perché per il punto di non sembrare come se non accettasse l'affermazione dello Shema, però, molto interessante, aval, tzarich sheitkaven shelo latzet yedei chovato, lui deve tenere in mente, mentre legge lo Shema questa volta, per la prima volta lui stamattina, che lo legge solo per far unirsi al pubblico e non per uscire l'obbligo della mitzvah. Perché? Kedei sheikra achar kach ima berachot. Perché dopo, quando lui fa la sua tefila, la legge per l'obbligo con le berachot che precedono e seguono lo Shema. Yotzer. Ok? Vechen shear advarim sheatzibur omrim. Altre cose che vengono dette dal pubblico, che gon, come per esempio Teilah le David, il Salmo 145, che è Ashrei Shevetecha, che alcuni usavano leggerlo tutti insieme, o comunque il versetto Potech et Yadecha, oppure Aleinu le Shabeach, Vekadome v'afilu piyutim, e altre cose che il pubblico dice, se ti trovi in un punto in cui non si interrompe, in cui si interrompe, dillo con il pubblico. Omer imhem. Questo per un'altra motivazione, Ve'agli frosh et atzmo min atzibur, c'è un concetto generale di non tenersi distinto dal pubblico. Per quanto riguarda lo Shema diventa più obbligatorio per indicare che non ci stiamo mai sia dissentendo dall'affermazione. Anche il Vayavor, bisogna unirsi quando il pubblico dice, che tra l'altro quello si dice solo in pubblico. Sì, altri punti anche che il pubblico, che sono importanti da recitare con il pubblico se ci troviamo in un punto in cui si può interrompere, è Aleinu le Shabeach. Anche se tu hai già pregato, hai già detto Aleinu le Shabeach, entri dentro un tempio e stanno facendo Aleinu le Shabeach, lo ripeti con loro, sì, perché è un'affermazione comunitaria, diciamo così. Ah, perdonami. Allora, facciamo, sì, c'era Alberto, andiamo in ordine, poi c'era Donato e poi c'è Leonardo. Diamo cavoda all'ordine e poi faremo domani, se Dio vuole, Bline dei numeretti. Prego. Scusa, è una domanda doppia, la prima parte era l'ultimo pezzo che hai detto, l'ultima parte. Bene, però se uno viene al tempio, sente lo Shema, però questo uno non ha avuto ancora modo di dire, non che non ha detto lo Shema, non ha nemmeno detto ancora il Berachot della Torah. Deve dirle. Le dice rapidamente e poi... Sì, non può recitare lo Shema prima dice di... Dice solo le tre Berachot al volo senza la parte dove sono inserite. Sì, dice, bravo. Se uno non ha recitato ancora le benedizioni della Torah, deve dire lo Kain Shema e le Berachot della Torah. Quindi non solo le tre. Però a quel punto già sanno dopo lo Shema. Allora non solo le tre Berachot del volo, proprio tutta la parte. No, dove lo Kain Shema è una Berachot, è un paragrafo. No, intendevo, scusa. E le tre Berachot dello Shema. Tutta la prima parte che non ha detto, a quel punto loro hanno finito. Sì. Deve almeno dare qualche indicazione che si sta unendo al pubblico, mandare, magari si copre gli occhi e continua a dire quello che sta dicendo, però indicare che non dissente è importante. Seconda parte della domanda? No, la prima mi hai risposto. Era già. Risposto perché senza neanche saperlo, ho già risposto. Baruch Hashem. Che Dio risponda alle nostre esigenze anche così. Amen. Donato. Allora, io sicuramente ho sbagliato. Io sabato sono andato allo Spagnolo, ho fatto a casa fino allo Shema. Poi sono sceso, sono arrivato allo Spagnolo e praticamente mancava un minuto che dovevano dire lo Shema. Praticamente io sicuramente ho sbagliato perché loro hanno fatto lo Shema e io mi sono iniziato a fare la Midah per conto mio. Ma perché non hai detto lo Shema? Perché non perché già l'avevo fatto no. A casa. Avevo capito fino allo Shema sei arrivato. E sono arrivato fino allo Shema a casa. E sono fino sceso. Allo Shema vuol dire prima o dopo dello Shema? Dopo, finito. Allora fino alla Midah sei arrivato, non fino allo Shema. Sì, dovevo fare la Midah, sono arrivato allo Spagnolo e io dovevo farmi la allora, Midah. Prossima settimana deve venire a tutte le lezioni ogni giorno. No, scusa. No, ascolta un attimino. Cosa ha fatto Donato? Facciamo l'esempio, no? Non è adesso importante prima lo Shema, dopo lo Shema, loro dove stavano o non stavano. Quando noi iniziamo Baruch Shamar, non possiamo interrompere fino a dopo l'Amidah. Quindi se hai fatto Baruch Shamar, vai fino a dopo l'Amidah. Cioè dovevo fare anche la metà a casa. Assolutamente sì. O dovevi fare tutto al tempio o tutto a casa. Però sto parlando adesso del principio di non interrompere da Baruch Shamar fino a dopo l'Amidah, non si fa nient'altro. Meglio anche non interrompere prima di Baruch Shamar e dopo l'Amidah fino alla fine della tefilà. Però hai una esigenza, quella che sia, comunque il blocco in cui non si spezza dopo lo Shema, prima l'Amidah, dopo. E non ricordo, scusa. Devi considerarlo per queste cose un blocco. Da Baruch Shamar e poi basta. No, o arrivi fino a Baruch Shamar e poi vai al tempio. O arrivi fino a dopo l'Amidah e poi vai al tempio. Si può dire questo camminando. Oppure dici solo. Quale? Si può dire. Tu fino. No. No. Meglio di no. Da Baruch Shamar? Sì, forse sì. Fino a Baruch Shamar. Fino. Ma da Baruch Shamar fino a dopo l'Amidah non credo sia adatto. Ho visto persone dirlo. Infatti, capivo che stavano dicendo. Ma sei sicuro che è dopo Baruch Shamar? Come fai a sapere cosa stavano dicendo? No, magari no, vedi che hanno detto lo Shema. Sì, non se dice lo Shema lo puoi capire, se dice l'Amidah. Non so se sta cosa. Comunque, io credo fino a Baruch Shamar, oppure se dopo l'Amidah. Comunque non era un rabbo, quindi voglio dire, potrebbe essere sbagliato. Può anche essere che non sbagliava, però può essere che sia fino a Baruch Shamar. Vai, allora c'è Leonardo, scusate, numeretti abbiamo detto. Prima gli anziani. Prossima domanda. Poi c'è il giovane. Quindi in ogni caso anche se uno fa le Berachot, nell'esempio di Donato, e fa solo lo Shema, no, perché lo Shema deve essere comunque anticipato da tutto Yotzer. Sì, perché però se arrivi più tardi delle 9:30 oh, al tempio, bravo, allora ecco, se il rischio è di perdere l'orario dello Shema, allora leggi lo Shema prima della tefila anche senza la Berachot, perché per non perderlo proprio, ok? Simile a questo, ok? A lezioni, perché già vale. Lo Shema, abbiamo visto, c'è un limite di tempo, no? Entro quale lo devi dire. Diciamo che io non l'ho detto, arrivo al tempio, che sto lì al tempo limite, il pubblico è già quasi alla Midah. Okay. Quello che abbiamo studiato l'altra volta, hai detto che la Midah bisogna unirsi al pubblico e poi fare le cose indietro, no? Ma dipende quali cose. Devo fare un minimo lo Shema, di cose. Che c'ha la priorità, penso, no? Sulla che Midah, cosa? Dire lo Shema. Nel tempo, sì. Se io sto a scadenza del tempo, posso dirti una cosa, non è una questione di priorità. Se loro stanno, se il pubblico sta per fare l'Amidah, sì, io devo dire ancora lo Shema. Ascoltami, sì? Non solo devi dire lo Shema, devi dire anche altre cose. Tutta la prima parte della tefilà non hai fatto ancora, sì, giusto? Sì. Allora ci sono delle cose che sono indispensabili da dire prima dell'Amidah, tra cui Baruch Shemar, almeno Ashrei Shevetecha, Ishtabach, le Berachot dello Shema e lo Shema. Quindi nel caso in cui tu dici, non è che puoi dire lo Shema e dire l'Amidah. Non basta per dire l'Amidah con il pubblico, servono tutti questi elementi, l'abbiamo studiato, no? Serve almeno Elokai Neshama, sì, le Berachot, sì, sì, della Torah, Baruch Shemar, uno dei Mismorim, cioè almeno Ashrei Shevetecha, Yishtabach, tutto il Yotzer, incluso lo Shema, e poi puoi fare l'Amidah. Quindi se tu arrivi al tempio che loro tra 30 secondi iniziano l'Amidah, non puoi fare l'Amidah con loro. Ok. Devi fare prima tutto questo, giusto? Scusami, non posso fare l'Amidah con loro. Vi mando il link della registrazione di quella lezione. Però se, se al pubblico manca il decimo e io sono il decimo, conto come Mignano o no? Il pubblico ti deve aspettare. No, spiego meglio. Come minimo di pubblico per fare l'Amidah, che sia considerato fatto con il pubblico, servono 6 persone che stanno facendo l'Amidah, la maggioranza, abbiamo il detto. Cielo, sì. 6 persone servono, allora vuol dire se tu arrivi, entri nel Minyan, diventano 10, se 6 di questi 10 stanno facendo l'Amidah, è considerato che si sta pregando Amidah con il Minyan. Ah, okay. Però c'è un'altra cosa a cui bisogna fare attenzione, quando si ripete l'Amidah, tu non devi stare già dopo Baruch Shemar, perché tutti devono rispondere Amen, anche dopo Baruch Shemar potresti rispondere Amen, però per dire servono 9 che rispondono Amen. Non bastano 6 che rispondono a me, servono 6 che pregano, ma servono 9 che rispondono. Sì. Ma che 6, scusa, posso? Sì, poi io. Non lo so, se c'è il numeretto. Vabbè, questo dei 6 persone. Sì. Forse ho perso un pezzo per strada. No, 6 persone, maggioranza di Minyan. Maggioranza di Minyan. Ma ci devono essere 10 persone presenti. 6 che pregano. 6 che dicono. Sei che stanno a passo. Questo non... Sei che stanno a passo con il Shaliach Tzibur. Ok, l'hai ritrovato. I sei che partecipano alla Amidah. Era una riforma di cui non sapevi. No, scherziamo. Allora, ok. Non so, sì, se è una cosa che poi affronteremo dopo, okay, visto che abbiamo, sì, fatto tutte le, cioè stiamo affrontando le alacorte dello Shema. Sì. Quando l'ufficiante fa lo Shema alta voce per il pubblico, mm-hmm, e a Bechara, cioè, si abbassa un po' la voce, mm-hmm, per quello che comunque ha il significato di quel verso. Sì, perdonami. Ma è... Quale verso? Ah, perché si dice a bassa voce? Si dice un po' a bassa voce. Sì. Ma è Alaka o è Minag questo? È Minag. Però è Minag, diciamo... Abbastanza. Non è sempre così esatto la linea tra Alaka e Minag. Ok, questo sì è un minhag, però va fatto. Cioè, quando si dice minhag, okay, non vuol dire non lo devi fare. Minhag vuol dire alcune comunità usano recitare lo Shema in questa maniera, quindi va rispettato in quei posti. Lo fanno i tripolini, lo fanno i romani. In molte comunità ashkenazite non si fa, perché dovete capire che nelle comunità ashkenazite non si fa il... Si canta poco un po' tutto. No, non si canta molte cose a alta voce. Lo Shaliach Tzibur conclude solo i brani a alta voce, ma non legge come leggiamo qui o dai orientali o libici o nordafricani, tutto a alta voce. Sì. Gli Ashkenaziti tutti pregano a bassa voce, sì, e lo Shaliach Tzibur, sì, sì, conclude ogni frase, ogni brano, sì, sì, però non dice lo Shema a alta voce. Però ho notato che è difficile seguire così, io mi capisco, certo, di stare... Beh, specialmente se siamo abituati così, anche io ritengo molto meglio così. Però chi è abituato a quel rito segue. Quando mi capita sono a Venezia, lì che nella piazza, uh-huh, loro. E le prime volte non lo sapevo. Eppure gli ho preso occasionali. Ok, grazie a tutti.